puzza che c'era dentro. Che casino, stava là dentro. Mamma mia, uè, adesso. Uè, ragazzi, adesso. Uè, Slovacca. Allora. No, tu 100 euro per servizio in camera. Sì, 100 euro. Ma poi, momento, 100 euro, io devo prendere 100 euro di quello porcello lì magro. Quello grasso non mi interessa, tu magro 100 euro. No, no, bello, io non ce li ho. No, Joris. Come tu non ce li hai, tu io vuoi... non ce l'ho soldi. Allora tu finisci su piastra con Slivovitz. No, no, Pippo, Pippo, non è che ti devi prestare 50 euro. No, prestarsi... 100 euro, quale 50? 150. No, allora, vabbè, prestimi qualche spizio. Un attimo, allora. 100 euro, 100 euro. Ci senti questa qua dei 100 euro? Tu via, io 100 euro. Tu allora, qui con zingari. Zingaro, amico tuo. Vabbè, io ti ho pagato, io ti ho salvato la vita. Ma che ti ha salvato la vita? Oh, la zingara si allora, è tirato fuori. Allora, qui la smettiamo di urlare o no? Banca, tu, allora, tu hai visto che mi trovo. Dammi i soldi, spicci per mandare via lo zingaro. Un attimo, e poi ci facciamo una bella festa che stiamo. Ah, 100 euro, 100 siamo belli contenti, 4, 4, 4, stiamo ridendo. Allora, basta, questa qua, sono già 300 euro. Allora. Ha detto 100 euro. Prendi spicci, l'albergo. Andiamo a fare la festa, ci diamo sti soldi. No, no, aspetta, qui sono manca. Oh, la prenotazione era una sola. Allora, tu, sì, 50 euro servono per lo zingaro? Sì. Se io ti do 50 euro, tu e lo zingaro, andate. E non so se bastano però, eh. Allora, io posso fare tutti e tre 200 euro. No, no, aspetta, no, no. Ah, beh, tagli i soldi. No, no, anche dai soldi, non hai capito. A parte qua siamo in due perché il terzo... 300! Io, E nostro Gido, guarda... E io che cosa faccio io? Ma che cosa vuoi fare tu che mi hai dato le roulotte tutte scassate? Che vuoi ancora? Allora, napoletano è sempre peggio di zingari. Beh, napoletano è una cosa di buoni fatti. Mi hai fatto dire, mi hai tirato fuori dalla pancia, ma ora ti do dai soldi. Allora, visto che me ne intendete, risolvetela fra voi due. Io tiro 50 euro, uscite, andate giù nella hall. Io vado a far festa con mio fratello, perché lui se ne può perfetto, pure andare. Perfetto, ti do 50 euro volentieri. Benissimo. Tanto, questa manca me ne costa 3,50. Vai, vai. 3,50 per tutti e per 50 euro per mandarti via? Sì, ma dammi sti spiccioli, vabbè, i soldi. 3,50, La 50, no, qui siamo, allora. 100. Cos'è che vuoi? A me mi dite 100. 3, qui siamo in 3, ma è uno solo, l'accordo di uno, no? Anche la signorina. 3,50. È salita pensando a qualcosa, no? Che non è che si aspetta qualcos'altro. 200. Ma che due, tu stai zitto che non sei di questo, ho capito. Io non può fare di meno, io due figli. No, no, io ho capito, come figli? Allora, io ho due figli, io famiglia povera, io non può fare di meno. E due figli, 100 allora. Euro, 100 euro. Allora, la stessa cosa che mi ha detto quello della roulotte, uguale. Cosa? Vuole 100 euro, pure lui sta senza la lira. Sì, uguale. Ho capito, allora, la signorina. Ma quello ci ha salvato. Questa... Ma chi? Lo zingaro? Sì, Slovanchi, Slovanchi da chi? Cioè, no, Slovanchi è un'altra che cosa. Perché vuole i soldi? Quello è l'affare mio, tu hai l'affare con zingaro, io con Slovacca. Allora ti do 50 euro, tu hai fuori dei maroni, porti Gildo giù ai giardinetti. E allora, siccome la signorina Slovacca, dalla sera alla mattina, all'inclusive mi costa 350 euro, la smettiamo, Ti do 50 euro, guarda, te li do volentieri. Basta che, ciao, vai con tuo zingaro, Gildo, tu. O stai qua, guardi l'altra parte, stai zitto. O vai giù ai giardinetti. Giardinetti, quelli che... No, i giochi non ci sono. C'è il giardinetto. C'è il giardinetto! C'è il giardinetto, allora tu accompagna giù. Pippo! Qua tu chiacchiere. Un zingare con... la zingare. Come la zingare? Se ne sono andati? E tu chiacchiere! Perché c'è la combutta? Se ne sono andati, vabbè, mi dico allora, i soldi! Ma come soldi? Antonio lo zingaro! Sì, ma io lo vado a trovare, non ti preoccupare. Ma quello, li devi dei soldi e lo vai a trovare? Sì, perché quello mi brucia la roulotte. Chiacchiere, chiacchiere! Ma chiacchiere chi? Allora, qui c'è poco da chiacchierare, qui si tratta di questa qua. Allora, qui, in primis, il problema è diventato uno. Che qui, lo zingaro è andato via. Tu gli dovevi 50 euro. 100! Tu gli dovevi 100 euro. E lui è andato via, te ne da bene. Io, signorina, 350 euro, previo accordo telefonico, li avevo anticipati. Quindi, io ho perso 350 euro. E tu ne hai guadagnati 100, perché non devi più ridare che lo zingaro è andato. Lo zingaro mica torna indietro. E se, quello, anche perché se torna indietro, quello... Stai alla gola. Hai capito? E fu così che i tre fratelli, che dovevano andare a vivere da soli, si ritrovarono di nuovo a vivere insieme, tutti e tre, nell'appartamento del Residence Mirage, dove potete prenotare a partire da subito telefonando o mandando una mail a chiedoasilo@radio24.it. Nell'oggetto mettete un fromage. Yeah, stop la boccia, vai! Allora, no, che boccia, fermo col frigorifero! Uè,